Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, come sempre, anche di borsa, ma parleremo anche di Europa. Perché? Perché, come i nostri GR24 vi hanno in parte già anticipato, c'è stata una presa di posizione anche del neopresidente Juncker sul governo italiano. Dice: attenzione, l'Europa non è fatta da burocrati, e da questo punto di vista chiede Juncker maggiore rispetto da parte del Premier Renzi, viene citato testualmente da parte del Premier Renzi per quello che riguarda la descrizione che viene fatta dell'Europa, non è un luogo di soli, o anzi di burocrati. Detto ciò, di Europa parleremo anche e soprattutto perché ci sono le nuove proiezioni sulla crescita o non crescita economica, varie dichiarazioni per quello che riguarda anche il ruolo della Germania, la Francia, dove la ripresa non è imminente, e complessivamente una crescita deludente dell'area euro nel 2015, una ripresa che resta lenta e che è deludente anche in Germania, dove scenderebbe dall'1,3% del 2014 all'1,1%, la Francia più 0,7%, l'anno prossimo l'Italia più 0,6, quindi vicino al livello francese, dove in Francia però il deficit continuerà a salire al 4,5% l'anno prossimo e il debito andrà al 100% del PIL. Per quello che riguarda l'Italia invece salirà il deficit, sostanzialmente è confermato al 3% quest'anno e al 2,7% nel 2015, quindi sotto il 3%. Il debito invece continua a salire, l'anno prossimo salirà al 133,8%, sia per un PIL piatto, e quindi, siccome è un rapporto, lo spieghiamo spesso, debito fratto, come si diceva a scuola, PIL. Se il denominatore non cresce o cresce meno delle attese o addirittura negativo, il risultato complessivo non può che aumentare, ma anche perché, fa notare l'Europa, ci sono tutti i pagamenti dei crediti arretrati che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione che andranno ad impattare. La disoccupazione resterà, ahimè, ai massimi storici. Queste le previsioni europee. Per quello che riguarda invece gli altri temi, torneremo sul fronte casi di borsa, con due casi molto diversi tra loro, ci mancherebbe. Uno riguarda il Monte dei Paschi di Siena, perché il titolo oggi guadagna un 5,43%, domani c'è un consiglio di amministrazione importantissimo per Siena, dovrà varare le misure per far fronte ai 2 miliardi e 100 milioni richiesti dopo gli stress test di ricapitalizzazione, e oggi anche sui giornali varie indiscrezioni sull'interesse di investitori esteri, oltre che AXA, che ha già confermato che parteciperà all'aumento di capitale. Dall'altro invece c'è il tema ancora di Moncler. Ora, Moncler non vogliamo tornarci, già ieri ne abbiamo parlato ampiamente per quello che è successo dopo la trasmissione Report e appunto le accuse. Il titolo oggi perde un altro 1,90%. Ci sono altre valutazioni da fare rispetto a altri titoli del lusso. Il titolo quotava comunque di più, ma sta seguendo quella che è la dinamica di molti titoli del lusso che hanno perso parecchio in questi mesi, in questo anno, ed è tornato Moncler sostanzialmente vicino ai livelli della quotazione, in alcuni casi anche sotto. Dall'altro lato però ci interessa capire come in casi come questi un gruppo possa rispondere. Ieri introducevamo già il tema che da quando sono esplosi i social network, ancor più di prima, nel momento in cui tu godi non tanto di cattiva stampa ma di un danno reputazionale, Beh, una volta classicamente il danno reputazionale arrivava o da una campagna di stampa, media intesi come giornali, TV o radio, oppure da qualche gruppo organizzato di pressione. Adesso in realtà è tutto più veloce e tutto meno controllabile, nel senso che per esempio la vicenda Moncler, come altre, insegna che la campagna, il danno reputazionale si è generato in primo luogo sui social network, Twitter e Facebook, con una ripercussione poi sulla stampa, con una ripercussione sulla borsa e quindi poi un richiamo ulteriore, un'amplificazione ulteriore da parte dei media. Cambia il modo di reagire, non è un caso non noto, ne abbiamo avuti anche noi qui, qualcuno evocava la vicenda Barilla, è un altro caso del genere, che tra l'altro si generò non per colpa nostra, ma ai microfoni di Radio 24, e quindi capire anche che come deve cambiare la comunicazione e la proiezione dell'immagine di un'impresa. Ripeto, non è una cosa da poco, perché ormai con la globalizzazione e i social network qualunque cosa rapidamente oltrepassa qualunque frontiera e quindi ha dei danni difficilmente valutabili con le lenti di una volta. E poi le elezioni di midterm in America, abbastanza scontata la vittoria, l'affermazione dei repubblicani, in realtà si tratta di capire di quanto e se veramente nelle percentuali che proiettano i sondaggi. Sarà anche l'occasione per fare un bilancio appunto di midterm del secondo e ultimo mandato di Barack Obama sui temi economici e anche sugli obiettivi raggiunti e quelli meno raggiunti. Faccio un esempio su tutti, così mi collego già alle notizie in breve. Alcuni osservatori fanno notare che l'obiettivo centrato tra tutti quelli promessi da Obama è stato quello di raggiungere il più possibile un'indipendenza energetica dal petrolio, dai paesi produttori di petrolio, che era uno degli obiettivi di Obama. Peccato che l'abbia raggiunta più con lo shale gas, shale oil e con le sabbie oleose che non con le fonti alternative. Ma il dato c'è tutto e infatti oggi, per ricollegarci al tema, il petrolio ha una nuova flessione significativa, scende a $77,20 il barile, il WTI, quello trattato negli Stati Uniti, è ai minimi dall'ottobre del 2011. Che cosa è successo? Beh, l'Arabia Saudita ha tagliato ulteriormente i prezzi del petrolio esportato proprio verso gli Stati Uniti. E perché questo? L'abbiamo già spiegato, perché gli Stati Uniti si stanno approvvigionando di petrolio interno. Poi sull'impatto ambientale di queste nuove tecniche, diciamo, per estrarre petrolio potremmo fare un'intera puntata. C'è chi sostiene che siano molto più invasive e distruttive del tradizionale classico pozzo petrolifero. A questo proposito oggi ci sono anche, sempre in tema di petrolio, dichiarazioni del numero uno dell'ENI, l'amministratore delegato Claudio Descalzi, che è intervenuto alla Commissione Industria del Senato. Ha detto che l'ENI, nel preparare la propria strategia per i prossimi anni, ha fissato il prezzo del petrolio a $90 come prezzo medio. L'eccesso di offerta, ha spiegato sempre Descalzi, ha determinato una caduta importante del prezzo, che è sceso di $24 in 4 mesi. La media che l'ENI pondera è di $90, sia per i progetti che per il budget e per gli investimenti futuri. A livello mondiale sono stati persi 3,3 milioni di barili di petrolio al giorno per problemi geopolitici, e questo la dice lunga, perché se si sono persi 3 milioni e 300 mila barili al giorno per problemi geopolitici, Iraq in primo luogo ma non solo, immaginate dove sarebbe arrivato il prezzo se vi fossero stati questi 3 milioni e 300 mila barili sul mercato, perché già è bassissimo nonostante un taglio di fatto della produzione dovuta appunto a tensioni geopolitiche. Per quello che riguarda l'ENI vale anche la pena ricordare che sempre Descalzi ha detto che continuerà a impegnarsi nel progetto South Stream, il gasdotto, se l'investimento sarà di €600 milioni, altrimenti valuterà l'uscita dal progetto. È un progetto che vede il 70% dei fondi a debito e il 30% di equity. I quattro soci hanno difficoltà a trovare un finanziamento, ma se tutto il progetto dovesse essere finanziato, e quindi non con i fondi a debito ma tutto finanziato a equity, Eni non potrebbe mai mettere 2,4 miliardi perché i conti dell'Eni andrebbero in pericolo. Quindi o l'Eni mantiene la quota di 600 milioni o esce dal progetto. 349-238-6666 per i vostri sms. E poi adesso rapidamente le altre notizie in breve. C'è sempre la pagina di Facebook su Facebook di Focus Economia. L'indice complessivo di Piazza Affari perde il 2,25%, Parigi meno 1,60%, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,60%. Allora, altri titoli in borsa, nel frattempo UX è il peggiore, meno 5,70%, UbiBanca meno 5%, Saipem pure, Popolare di Milano meno 4,30%, è un'altra giornata difficile per le banche comunque oggi, Popolare Emilia Romagna meno 4%, Intesa meno 3,70%, Intesa San Paolo, Banco Popolare meno 3,35%, Unicredit meno 3,20%. Bene invece, oltre al Monte dei Paschi, che guadagna appunto il 5,50, anche Snam Rete Gas, più 3,5%. Allora, altre notizie, volete sapere dell'euro? L'euro è a 1,2554, quindi su livelli abbastanza stabili. Dicevamo dell'Europa, e allora parliamo delle previsioni economiche europee. Perché? Perché la Commissione europea fa sapere che la crescita nell'area euro resta lenta nel 2015, la fiducia bassa, deludente appunto in Germania, in Francia, già ricordavamo le cifre. Se vogliamo, in Italia, dopo il meno 0,4% del 2014, se fosse confermato un più 0,6%, sarebbe comunque un dato positivo, tiepida ripresa solo grazie, dice però la Commissione europea, all'accelerazione della domanda esterna. Tradotto, i consumi in Italia non ripartono e non ripartiranno neanche nel 2015. Del deficit, dicevamo, confermato quest'anno al 3% e al 2,7% nel 2015, col debito in salita e la disoccupazione ai massimi storici. Angela Merkel scopre oggi l'acqua calda, non so come si dica in tedesco. Beh, dice: l'area euro non si è ripresa ancora come volevamo. Lo so, non basta volere delle volte, occorre anche predisporre. Anche dice: voglio che l'area euro si riprenda. Però se continui a occuparti solo dei deficit, dei debiti, a non avere iniziative di investimenti europei e liberare un po' di risorse per la crescita, tu puoi volere quanto vuoi, ma la ripresa non c'è. Poi dice la cancelliera tedesca: hanno giocato anche la debole ripresa mondiale e le crisi geopolitiche. Vero, però faccio notare che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, con politiche monetarie completamente diverse, sono già fuori dalla crisi, per cui. E però continua, perché ormai quella delle riforme è quasi un riflesso pavloviano in Germania. Nell'area euro la situazione è estremamente fragile, e questo perché in alcuni paesi le riforme vengono fatte o devono essere ancora fatte, e anche perché, a mio avviso, continua Angela Merkel, alla questione della credibilità non è stata data ancora risposta adeguata. Sì. Possiamo aggiungere che nell'area euro la ripresa è estremamente fragile, cara cancelliera, perché la domanda interna, i consumi dei francesi, degli italiani, che sono due, sono i due paesi più grossi assieme alla Germania, e anche in parte degli spagnoli, sono ai minimi storici, e perché si è cercato di uscire da questa crisi solo ed esclusivamente con aumento delle tasse e riduzione della spesa? Tant'è che perfino un rigorista come Jyrki Katainen, l'ex premier finlandese, che fu un grande fautore dell'austerity in Finlandia, poi la Finlandia è finita in recessione anche su questo, non voglio infierire, dice: beh, attenzione, la Germania gioca un ruolo significativo, ma va, nell'economia europea. Ma all'Unione Europea servono più motori, non ne bastano solo uno o due, ed è per questo che la Commissione insiste sulle riforme. Per il bene stesso della Germania, La Germania deve investire in ricerca e in sviluppo e in infrastrutture. The German's growth is still higher than was in average, but anyway above many other member states. La crescita economica tedesca è ancora più alta della media e più alta di tanti altri stati. La base industriale tedesca è molto solida e la Germania può giocare un ruolo significativo di stimolo per l'economia dell'area euro ed europea. Ma dobbiamo anche accettare il fatto che occorrono più motori. L'Europa non sopravviverà con solo uno o due oppure tre motori. Ciò significa che dobbiamo riformare la società in modo che tutti gli stati siano abbastanza competitivi per contribuire alla crescita economica. Ecco perché la Commissione ha tanto insistito con gli stati per fare di più e per focalizzarsi sulle riforme strutturali, perché sta proprio lì la ragione della debolezza delle economie in tanti paesi. Quindi le riforme sono al primo posto, anche in Germania. Se alcuni paesi sono più forti in questo momento, ciò non rassicura per il futuro. Per il bene dell'economia tedesca è essenziale investire in ricerca e sviluppo e in infrastrutture, così da allargare la base industriale del paese. Il debito pubblico tedesco è sopra il 60% e certo non è un dato allarmante. Ma la Germania ha promesso di far scendere questo livello. In Germania e in altri paesi, i governi possono dare priorità alla spesa pubblica e anche agli investimenti, sia in ricerca e sviluppo che in infrastrutture, senza alzare il debito. And now it's the right time to prioritize investments to R&D or to infrastructure without raising debt. Glielo dice l'amico Katainen, non glielo diciamo noi, la Germania investa per il suo bene. Sì, ci sono quei paesi che devono fare le riforme per il loro bene e per il bene dell'Europa, e la Germania deve farlo solo per il suo bene. Va bene, a me basta che la Germania la smetta di fare il braccino corto dell'Europa per arrivare a questo deficit a zero quando il resto dell'Europa galleggia, anzi in alcuni casi affonda, e faccia degli investimenti che non sono le autostrade italiane o francesi, sono le autostrade tedesche, le infrastrutture tedesche, la ricerca tedesca, lo sviluppo tedesco. Nessuno chiede di mettere ai tedeschi di mettere soldi per noi, ci mancherebbe. Vabbè, Katainen poi continua, vi è un falso senso di sicurezza dall'euro, la crisi sarebbe stata peggiore senza la moneta unica stabile, e poi però aggiunge, attenzione, con il debito elevato non si cresce, è molto importante rispettare la regola del debito. A causa delle diverse situazioni economiche negli Stati membri, le regole sui bilanci sono relativamente flessibili e il cuore della flessibilità è nel fatto che l'aggiustamento viene valutato a livello strutturale. Il secondo punto che voglio sottolineare è l'importanza della regola sul debito, importante quanto quella sul deficit. Come possiamo notare ora, il livello di debito pubblico non garantisce una crescita economica più veloce. Se potesse garantirla, i paesi con i più alti debiti pubblici crescerebbero più rapidamente. Invece succede il contrario. Ecco perché dobbiamo considerare la regola sul debito importante quanto quella sul deficit. Poi oggi è intervenuto anche nel presentare le previsioni dell'Unione Europea anche il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici, di tutt'altra impostazione scuola economica, tant'è che appunto si disse che il vicepresidente della Commissione Europea Katainen era il commissario anche di Moscovici, quando per non avere una commissione troppo sbilanciata verso Francia e Italia e poco rigorista. E Moscovici dice sostanzialmente, abbiamo alti ed elevati livelli di debito pubblico e anche privato, e il consolidamento, quindi il controllo dei conti pubblici, è ancora necessario, il consolidamento di bilancio, ma dobbiamo ricreare la fiducia, serve dare più dinamica all'economia europea anche grazie al piano di investimenti molto ambizioso annunziato da Jean-Claude Juncker. There is no single and no simple answer. The economic recovery is clearly struggling to gather momentum. Non c'è un'unica e semplice risposta per far ripartire l'economia. La ripresa economica sta chiaramente lottando per non perdere il treno. Credo che sia essenziale che i governi si prendano le proprie responsabilità e mettano in moto sia la domanda sia l'offerta per dare slancio alla crescita economica e all'occupazione. Tutti gli stati hanno bisogno di riforme strutturali decise, politiche di bilancio credibili e un chiaro sostegno agli investimenti per mettere in atto il piano di investimenti da 300 miliardi annunciato dal presidente Juncker. Visti gli alti livelli di debito pubblico e privato, il consolidamento di bilancio è ancora necessario. Fiscal consolidation is a necessity. Vedremo poi dove sono questi 300 miliardi di investimenti, che non vorrei fossero una partita di giro. Poi in realtà molti osservatori fanno notare che soldi freschi in Europa non ce ne sono, però detto ciò, sempre su Juncker, il presidente Juncker, neopresidente della Commissione Europea, ha risposto a muso duro, diciamo così, al nostro premier Matteo Renzi. Perché? Perché ha detto: a Renzi dico che non sono il capo di una banda di burocrati, sono il presidente della Commissione Europea, istituzione che merita rispetto non meno legittimata dei governi. Ricorderete che Renzi si era espresso in maniera abbastanza caustica sugli euroburocrati, dicendo: sono lì grazie a noi. Se la Commissione avesse, e poi aggiunge in maniera un po' velenosa Juncker, se la Commissione avesse dato ascolto ai burocrati, il giudizio sul bilancio italiano sarebbe stato molto diverso. Come dire, attento, perché proprio perché non siamo solo burocrati ma anche politici, questa è la mia interpretazione, ci mancherebbe, la finanziaria italiana è passata in maniera così morbida. Avessimo dovuto dare ascolto solo ai burocrati o ai tecnici, il giudizio sarebbe stato molto diverso e quindi negativo, non certo più positivo. Questo sui tecnocrati di Bruxelles. Vedremo se questa sera il premier Matteo Renzi risponderà a Juncker, è ospite, se non ricordo male, a Ballarò. Nel frattempo, sempre questa sera, vi sarà la riunione di entrambi i gruppi parlamentari del PD. Nel frattempo l'ufficio parlamentare di bilancio ha presentato la relazione con la previsione sulla legge di stabilità. Allora, l'effetto sul PIL delle misure del TFR, sul TFR, quelle non dico bocciate, ma su cui la Banca d'Italia ieri sera e oggi su tutti i giornali si è espressa in maniera molto preoccupata, cioè, attenti, si rischia di minare tutto il sistema previdenziale futuro. Comunque, l'effetto sul PIL delle misure sul TFR potrebbe attestarsi intorno allo 0,1% e l'incremento dei consumi potrebbe essere stimato in 2,7 miliardi di euro. Nel frattempo sono stati sentiti anche Giuseppe Pisauro, in audizione ha spiegato che poi il DDL determina una manovra netta espansiva nel 2015, neutra nel 2016 e riprendendo poi a partire dal 2017 il percorso di consolidamento dei conti. E l'ABI, ossia le banche italiane, ha detto che il quadro macroeconomico appare coerente con quanto previsto dalle banche e ha confermato la disponibilità delle banche a sostenere l'operazione TFR. Rete Imprese per l'Italia, sempre in audizione sulla legge di stabilità, ha detto: attenzione, la manovra in due tempi sull'IRAP comporterà una generalizzata crescita del carico fiscale, perché si elimina il taglio del 10% dell'IRPEF, ma vi saranno nuovi sgravi solo a partire dal 2015, ossia il taglio del 10% previsto con il DL IRPEF determina un ingiustificato aumento delle tasse nei confronti di chi ha collaboratori o contratti a tempo determinato o delle imprese senza dipendenti, l'abbiamo già spiegato. Mentre la riduzione per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato scatterà solo al 2015. La CGIL invece, sempre in audizione, ha chiesto una legge patrimoniale sulle grandi ricchezze, un piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile da finanziare attraverso un'imposta sulle grandi ricchezze finanziarie, solo sul 5% delle famiglie ultra ricche d'Italia. Con un gettito di circa 10 miliardi l'anno si potrebbero davvero creare oltre 740.000 posti di lavoro. E poi arrivano i comuni. Voi sapete la nostra posizione, giusto che i comuni chiedano tagli non lineari, i comuni e le regioni, ma sono più credibili, lo abbiamo spiegato per settimane, se iniziano anche a dirci cosa possono vendere a partire dalle migliaia di partecipate dei comuni municipalizzate o dalle regioni che sono in perdita o che comunque possono tranquillamente uscire dal loro perimetro. Il rappresentante dei comuni italiani dice: attenzione, nel momento in cui ci si fa carico di partecipare a una riduzione di spesa nazionale è impossibile non toccare anche la sanità, l'80% della spesa delle regioni. E aggiunge: faremo nostre le proposte, questo è sempre Chiamparino alla conferenza delle regioni, faremo nostre le proposte sui costi standard per tutti, quindi rendere più stringente il patto della salute per recuperare risorse per fare investimenti e costi standard per tutti. Poi siamo pronti anche ad accentuare per tutte le regioni la logica che sta nel patto della salute, quindi vuol dire fare più risparmi, a condizione che insieme il governo si rimette in circolo delle risorse per investimenti nella sanità secondo costi standard. Se dovessi fare uno slogan direi costi standard per tutti, applicazione rigorosa alle regioni, ma anche alle amministrazioni centrali dello Stato. Sì, noi ribadiamo che le regioni potevano già averli applicati questi costi standard, poi le province italiane, per voce della rappresentante Daniela Bosone, dicono a rischio scuole, strade, trasporti, vabbè, sempre così. Però c'è una buona notizia, un'ottima notizia, visto che ne abbiamo fatto una piccolissima campagna di questo programma. È arrivata, era già stato mezzo annunciato oggi dal sottosegretario Delrio, o meglio dalle Onlus che hanno incontrato il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. Avete capito già che mi riferisco al taglio inaccettabile fatto dalla legge finanziaria del fondo già ridotto per le disabilità, tutte, non solo la SLA, che serve a integrare le famiglie che hanno un figlio o dei parenti disabili, non autosufficienti, tagliato da 350 milioni in questa finanziaria a 250 milioni. Delrio l'aveva anticipato, c'era la manifestazione oggi. Ebbene, il fondo per i non autosufficienti sale a 400 milioni di euro. L'ho annunciato, quindi tornano i 350 più altri 50. I passi avanti sono stati raggiunti oggi, definiti su input del Premier Matteo Renzi, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio e dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Bene, bene così, lo ribadiremo anche più avanti. È una piccola cosa, è una piccola cosa per i conti dello Stato, è una grande cosa per le famiglie coinvolte, ed era veramente inimmaginabile che in questa finanziaria da 32 miliardi si dovessero toccare 100 milioni per le famiglie disabili. E quindi bene, noi non contiamo nulla, vi riportiamo solo la notizia. La ricordo ancora, adesso il fondo tagliato da 350 a 250 milioni torna a salire e sale a 400 milioni. Voglio festeggiare di nuovo, vai, vai. Visto che la giornata è grigia, piove un po' dappertutto, ogni tanto una buona notizia. A 7:43 minuti, sei contento? Rompi palle, hai messo veramente paura ai nostri governanti. Sono contento, glielo confermo. Non abbiamo sicuramente messo paura ai nostri governanti, però piccolissimo, piccolissimo ruolo l'avremmo avuto. Sicuramente molto più di noi ha fatto ci mancherebbe le manifestazioni delle associazioni che rappresentano anche i portatori di handicap. Mi riferisco alla notizia, per chi se la fosse persa, che il governo non solo ha eliminato il taglio indegno da 100 milioni di euro a un fondo da 350 milioni per aiutare le famiglie di portatori di handicap, di famiglie che hanno delle disabilità, ma l'ha portato a 400 milioni. Però insomma, sì, sono contento, glielo confermo, posso essere contento anch'io nonostante in questi anni di felicità a momenti, poi lo mettiamo magari, ne abbiamo vista poca. Dottor, c'è il presidente di Fisci in collegamento, Vincenzo Falabella, buonasera. Buonasera a lei. Fischer, la Federazione Italiana Superamento Handicap. Lei è ancora più contento di me, immagino. Ma io sono, oltre ad essere contento, diciamo, cerco di evitare queste esternazioni di entusiasmo. Noi oggi abbiamo portato a casa un piccolo risultato, 400 milioni di euro per l'FNA in un fondo che è stato strutturato, attenzione, quindi 2015, 2016 e 2017 avremo questo impegno economico da parte del governo. Noi chiediamo maggiore attenzione alle politiche che sono finalizzate per migliorare la qualità di vita delle tante persone con disabilità che vivono nel nostro paese. Vabbè, allora lei ha ragione a non esultare, esulto io perché l'abbiamo vissuta in diretta, però diciamo una cosa, Falabella, rispetto a come buttava la settimana scorsa quando ci siamo sentiti, che abbiamo scoperto che in finanziaria veniva tagliati 100 milioni ulteriori di tagli già fatti sul fondo per le disabilità, e abbiamo fatto sentire invece le promesse anche del premier Matteo Renzi con l'ice bucket e tutto quello che c'è quest'estate, diciamo, non solo tornano a 350 milioni, vanno anche 400 milioni, diamo anche a Cesare quel che è di Cesare, no? Certamente, riconosciamo da parte del governo in questa partita un'attenzione particolare che è stata data a quelle che erano le nostre legittime richieste. Bene, io spero di non averla più ospite, nel senso buono del termine, nel senso che spero che non capiti più che in una manovra da 32 miliardi con tagli si vadano a tagliare 100 milioni, cioè briciole delle briciole, in chi già vive un dramma di suo. E grazie, in bocca al lupo a tutti coloro che lei rappresenta, al presidente di Fish Vincenzo Falabella. Adesso mi scrive un ascoltatore: adesso avrai il coraggio di chiedere scusa. Ma a chi devo chiedere scusa? Mi scusi, cioè, c'era un taglio che è stato adesso levato e hanno aggiunto anche un po' di soldi, perché devo chiedere scusa al governo? No, dico bene avete fatto a levare il taglio, bene avete fatto a mettere qualche lira in più. Un paese civile che fa una manovra da 32 miliardi, che ha le spese sulle regioni, le province e i comuni che stiamo raccontando, che spende 850 miliardi di spesa pubblica, e se vuole essere civile non va a toccare 100 milioni ai disabili. Ma a chi devo chiedere scusa? Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Allora, andiamo alla borsa, va là, perché adesso c'è anche la borsa. Meno 2,24% Milano nel finale, meno 1,50% Parigi, meno 0,90% Francoforte e meno 0,50% Londra. L'America perde uno 0,30%. I casi di oggi: Monte dei Paschi da un lato più 5,35%, alcuni titoli, penso a Yux, meno 5,70%, tutti bancari. E poi avremo di nuovo un approfondimento leggermente diverso rispetto a ieri sulla vicenda Moncler. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, allora la borsa. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E grazie anche a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, con cui commenteremo il titolo Monte dei Paschi. Prima di tutto però abbiamo visto un recupero per Snam più 3,60, piccolissimo recupero per Terna più 0,11%, e invece di nuovo lusso sotto pressione, ma lasciamo stare Moncler per una volta. Tod's meno 3,24%, Ferragamo meno 3,70%, Yux meno 5,70%. Sì, per quello che riguarda il lusso, oggi è stato molto penalizzato dai conti di Hugo Boss, in particolare dalle previsioni che la società ha fornito sul 2014. Infatti Hugo Boss ha tagliato le stime, precedentemente aveva indicato una crescita di margine operativo lordo per quest'anno dell'8-9%, in crescita dell'8-9%, ha rivisto questa stima a un più prudente 5-7%, e si tratta di una cosa che arriva dopo che già altre società del lusso avevano rivisto e tagliato le stime, e quindi è andato un po' a confermare una tendenza e a penalizzare un settore, anche in Italia si è visto con i titoli che citavi tu prima. Eh sì, poi parleremo, ripeto, di Moncler a parte. Ancora, Carige, Cassa di Suono di Genova, sale. Ho visto un interesse anche di Davide Serra, ormai è dovunque Serra, da Leopolda, poi Carige, comunque più 6-70%, no? Sì, di fronte a questo interesse, di fronte alle speculazioni che abbiamo visto in questi giorni sui titoli più in difficoltà, che erano quelli più in difficoltà per come erano usciti dagli stress test, ogni notizia è in grado di farli muovere. Oggi c'era questa indiscrezione dell'interesse di Davide Serra, che peraltro ha smentito, però insomma per il titolo è stata una giornata positiva, e su questa indiscrezione, vera o meno che sia, il titolo è salito. Ancora, andiamo avanti, vedo altri titoli, beh certo che c'è anche Seat Pagine Gialle più 9%, il terzo miglior titolo in assoluto però oggi è Monte dei Paschi di Siena, per carità, ha perso da il 40% nelle ultime settimane, nell'ultima settimana quasi, per cui il recupero di oggi è solo parziale, più 5,35%, però a 65 centesimi di euro. Marco Ferrando, che evocavo prima, buonasera. Buonasera. I motivi per cui Monte dei Paschi... Allora, domani c'è il Consiglio di Amministrazione che deve spiegare come intende recuperare 2 miliardi e 100 milioni che gli ha chiesto la BCE dopo gli stress test. Il motivo per cui sale? Il motivo per cui sale è che le notizie finalmente stanno per essere certe. Diciamo che le vendite, non dimentichiamo, il 40% perso il titolo in 5 sedute la settimana scorsa, sono scattate dopo che erano usciti i risultati degli esami BCE ed EBA, da cui emergeva appunto questo fabbisogno di capitale molto superiore alle aspettative della vigilia. Questo ha gettato, diciamo, un po' così nell'incertezza del mercato. Si è parlato di ogni possibile soluzione, da un intervento dello Stato con la conversione dei Monti Bond in altra forma, insomma si è sfogliata la margherita delle ipotesi di ora in ora. Questo evidentemente ha spinto le vendite. Adesso sembra che ormai siamo al buono, l'aumento di capitale, o meglio il buco di capitale verrà coperto con un aumento rispetto al quale già si è costituito un consorzio di garanzia. Questo evidentemente fa capire che la strada c'è ed è meno disastrata di quanto non si temesse. Quindi in realtà, contrariamente a io non posso più dire gufi, ci hanno rubato anche questo termine, contrariamente a chi era molto scettico inizialmente sulle possibilità che il Monte dei Paschi potesse recuperare capitali privati per 2 miliardi e 100 e da lì l'ipotesi di nazionalizzazione, di ingresso dello Stato, in realtà non è solo AXA ma anche altri soci del Monte dei Paschi sembrano intenzionati a mettergli questi soldi. Sì, esatto, ma diciamo che la situazione è particolare, nel senso che non dimentichiamo MPS reduce da un aumento di capitale da 5 miliardi. Questo vuol dire, è fatto tra maggio e giugno, questo vuol dire che chi vi ha partecipato, se non vuole di fatto perdere buona parte dell'investimento fatto, ha tutto l'interesse a partecipare, ed è questo il motivo per cui non solo AXA ma anche probabilmente Fondazione MPS e soci sudamericani con cui è costituito il patto sottoscriveranno l'aumento. Poi la banca resta comunque con multipli di borsa molto conveniente rispetto alla media, e di qui si può spiegare l'interesse di fondi per lo più esteri, che evidentemente vedono la possibilità di un investimento con delle prospettive. Allora, staremo a vedere. Grazie Marco Ferrando, ci importava fare l'aggiornamento, ci interessava, scusatemi, fare l'aggiornamento anche su questo. Torniamo da Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Dicevamo, Eni e Saipem invece soffrono ancora, e qui c'è un tema che affronteremo nella seconda ora, già anticipavamo la debolezza del petrolio. Sì, il petrolio oggi è sceso molto sotto gli $80 al barile, ha raggiunto praticamente i $76 al barile. Tutti i titoli del settore ne hanno risentito, e più in generale il calo del prezzo del petrolio è quello che ha pesato di più oggi sui listini europei. Eni ha ceduto il 3,53%, Saipem ha ceduto quasi il 5%, il 4,84%, nel giorno in cui oltretutto c'era l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, che è stato ricevuto alla Commissione Industria del Senato e ha parlato di varie cose, ha precisato sul fatto che per quello che riguarda l'eventuale cessione di Saipem in questo momento non c'è nulla, non c'è un'offerta di Rosneft, non ci sono offerte dei cinesi, ha anche detto che intende ridurre l'indebitamento entro fine anno sotto quota 15 miliardi e ha parlato anche di South Stream, il progetto del gasdotto fra la Russia e l'Europa. Dove, come ricordavo in apertura, ha detto che uscirà se deve costare più di 600 milioni. Allora, Guido Maurino, resta con noi, nel senso che adesso c'è GR24 e poi vorrei concludere con altri titoli, poi la vicenda Moncler e le previsioni sulle votazioni di midterm in America. C'è anche una notizia che oggi ha solo il Sole 24 Ore, il merito va ad Andrea Malan, e che riguarda Sergio Marchionne, riguarda le stock options, riguarda il tempismo. Bravo Malan, tutto legale, però possiamo raccontarla. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiudiamo con la borsa e poi passiamo anche a altre vicende che hanno sempre a che fare con la borsa. Dicevamo con Guido Maurino, al di là della debolezza di tutti gli energetici, Eni meno 3,53% e poi anche Saipem meno 4,84%, chiudiamo sui bancari perché abbiamo citato e approfondito soprattutto MPS, che è positiva, ripeto, 5,35%, però tutti gli altri, come ricordavamo, vanno male, anche parecchio. Sì, oggi è stata una giornata negativa per i bancari un po' in tutta Europa, in Italia in modo più marcato, soprattutto per quello che riguarda alcune popolari come UbiBanca meno 4,93%, la Popolare di Milano meno 4,45%, la BPER meno 4,10%, ma anche i bancari del resto d'Europa, da Commerzbank a Societe Generale, hanno avuto perdite oltre il 2%. Per quello che riguarda l'Italia, in parte hanno pagato il leggero allargamento dello spread e in parte hanno pagato anche il taglio delle previsioni sull'economia diffuse questa mattina dalla Commissione europea, che hanno inciso sia sul settore bancario che su quello industriale, che è stato uno degli altri grandi settori venduti nella giornata di oggi. Migliori e peggiori, già dicevamo Seat pagine gialle più 9, poi Cassa dei risparmi di Genova più 6,70, Monte dei Paschi più 5,30 e Snam appunto più 3,60. Fronte opposto, Nokia meno 8,36, D'Amico meno 6,10, Saipem appunto meno 4,80, Italcementi meno 4,70. Adesso parliamo anche della vicenda Moncler. Oggi in borsa il titolo è calato meno 1,81%, ma non in maniera così intensa come ieri. Grazie intanto a Guido Maurino, Radio Colli sulle 24 ore. Sul fondo per le disabilità, che ripeto chi se lo fosse perso, era una nostra piccola battaglia, ma sicuramente non è merito nostro, ci mancherebbe. Il governo ha ripristinato non solo il fondo a 350 milioni, ma lo ha portato a 400 milioni. Un ascoltatore mi scrive, immagino per alcuni messaggi che leggevo, ma i messaggi cretini se li inventa da solo? No, non me li invento da solo, glielo assicuro. Non leggiamo quelli di complimenti perché sembrerebbe stucchevole, ma purtroppo alcuni messaggi che leggiamo sono tutti i messaggi sono veri e alcuni hanno anche quel tenore. Ma occupiamoci adesso di Moncler. Allora, due premesse rapidissime. Uno, onore e merito a Milena Gabanelli, ai suoi giornalisti e a Report, perché quello è giornalismo d'inchiesta, punto e basta. Secondo aspetto, so benissimo quello che hanno scritto molti ascoltatori anche ieri nel merito della vicenda, che se si andasse a vedere il trattamento, qualcuno mi scrive in Mongolia per il Kashmir, come vengono tosate le capre mongole, non lo so, obiettivamente non me ne sono mai occupato. Altri hanno scritto una cosa a mio avviso ancora più sottile, dicendo sì, però se iniziamo a vedere allora il tema delle oche va benissimo, andiamo a vedere anche il tema dei lavoratori in Bangladesh, in Cina, che producono i nostri computer, perché allora lì in effetti, se non si vuole essere ipocriti, andiamo a vedere tutto. Ma il tema oggi non è molte volte abbiamo parlato di delocalizzazione, distinguendola tra delocalizzazione vera e propria, cioè tu vai e porti l'attività fuori, o internazionalizzazione, tieni la parte maggior valore aggiunto in Italia e altri fuori. Il tema, a mio avviso, è come si reagisce a un danno reputazionale. Ho citato la vicenda Barilla perché si è generata in questa radio, non per colpa di questa radio, ma per le dichiarazioni fatte a suo tempo da Guido Barilla, poi le ha corrette. Nell'era dei social networks, una volta se c'era un danno reputazionale, un danno di immagine forte, avveniva a mezzo stampa, radio, giornali, TV, oppure per gruppi organizzati di pressione, come si chiamavano una volta. Adesso è tutto diverso, nel senso che l'inchiesta nasce dalla televisione, ci mancherebbe onore e merito da Gabanelli. Poi però divampa, grazie ai social network, con un fenomeno di amplificazione che va oltre qualunque confine nazionale, perché è chiaro che il ragionamento che poi facevano ieri gli analisti era il danno complessivo della Moncler, coinvolgendo gruppi di pressione ma attraverso i social network, con una rapidità sconosciuta prima, e poi rimbalza anche sulla stampa che a sua volta contribuisce a, diciamo, rialimentarla, a tenerla in vita. Tutto questo richiede una strategia diversa, cioè il classico ufficio stampa che chiama i giornalisti per dire guardate che è un po' diverso la nostra posizione così, o che fa anche moral suasion, a mio avviso così non funziona più. E siccome da danni di questo tipo ci sono danni economici per le imprese, come sanno tantissime imprese citate, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Gianluca Comin, che è stato per tantissimi anni il capo della relazione esterna dell'Enel e insegna strategie di comunicazione alla LUIS ed è fondatore anche di Comin & Partners, che vuole occuparsi proprio di strategie per rispondere a, diciamo, un attacco reputazionale. Comin, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, non voglio entrare, ripeto, già ieri l'abbiamo affrontato nei contenuti del servizio, ma ampiamente ne abbiamo parlato, però Moncler ha smentito le accuse di Report, ha detto che sta pensando a fare anche una causa legale, ma insomma se tu avessi dovuto fare da consulente, ma non solo al caso Moncler, quando si scatena per vari motivi, perché poi i social networks oltretutto non sono nemmeno controllabili, c'è un media classico, chiami il caporedattore, chiami il vice direttore, chiami il direttore, parli col giornalista, cioè hai delle figure di riferimento. Qui tutto è come anche nel caso precedente, è impazzito sulla rete, Twitter e Facebook. Insomma, stanno cambiando anche i modi di reagire delle imprese, o ancora si ritiene che l'immagine sia sì qualcosa di utile ma non di fondamentale, qualcosa in più, mentre a noi sembra che sia qualcosa di essenziale per l'andamento stesso del titolo e del gruppo? Prego. Guarda, il tema è ovviamente centrale, purtroppo non c'è una grande sensibilità ancora nelle imprese, si ritiene che i rischi siano qualcosa di lontano e che tutto sommato un buon ufficio stampa si risolvono. In realtà è cambiato il mondo, non sono cambiati i rischi, rimangono gli stessi da 100 anni a questa parte, rischi legati alla reputazione, legati ai diritti umani, legati in questo caso al rispetto di alcune regole etiche. Il tema qual è? È che i social network hanno portato anche i rischi minori a diventare rischi immediatamente visibili, e se questo non si capisce si finisce in un tritacarne mediatico senza nemmeno accorgersene. Cosa fare? Il cosa fare è saper prevedere, saper prevenire queste cause facendo un audit, un'analisi approfondita di quelli che possono essere i rischi che l'azienda corre. Di fronte a alcuni rischi si può prendere delle controindicazioni che non sono chiamare la Croce Rossa perché il ferito è a terra, ma è cominciare a curare il malato finché non muoia. Questo è un caso nel quale... Ma tu avresti come prima reazione detto, bene, non è vero, stiamo pensando di querelare Report? Cioè non è una reazione un po' classica, allora, un po' scontata? Io non credo, perché ho seguito molte trasmissioni di Report anche direttamente, non credo che la Gabanelli non abbia chiesto all'azienda una sua opinione, non credo che non ci sia stato l'occasione di avere un'interlocuzione, poi uno può accettare di farla o non farla. Ma nel momento in cui sai, e questi servizi vengono preparati con mesi di anticipo, potevi mettere in atto una serie di azioni o di correzione o di spiegazione sui social network, nella comunicazione tradizionale, nel tuo sito, affinché nel momento in cui arrivava la trasmissione della Gabanelli ci fosse un goodwill nel mercato, un goodwill tra i consumatori. Cos'è il goodwill? Il goodwill è un vantaggio, un qualcosa di positivo che già è dentro la mentalità delle persone, che quando arriva la crisi dice vabbè, è una crisi, però tutto sommato è un'azienda che è etica, che fa bene, che rispetta i diritti, che rispetta i lavoratori, che eccetera. Allora, probabilmente non è stato fatto nulla di questo nel passato, non è stato fatto nulla di questo in attesa dell'uscita di questa trasmissione, e ci si è trovati impreparati di fronte a una situazione molto dura e molto, molto difficile, e non entro nel merito se è vero o non è vero, poi sai le cause si fa presto a no, ma così come risponde anche gli ascoltatori, è ovvio, come dice, come si fa ad arginare il danno d'immagine, basta non mettere in atto certe pratiche, ho capito, però vediamo di capirci, abbiamo avuto anche casi nel passato di aziende che scoprivano che i subfornitori utilizzavano manodopera in maniera illegale, obiettivamente delle volte magari non l'avevi conto, non sto giustificando, sto dicendo che in alcuni casi è più facile dirlo che farlo, tu magari chiedi no è tutto regolare al tuo subfornitore che sta in Turchia o che sta in Asia e poi scopri che non è così, allora ci sono delle pratiche chiaro di controllo etico, ma dico se improvvisamente scatta una vicenda come questa, voi pensate cosa generò il metanolo, che era una cosa gravissima, al vino italiano in quegli anni, ma adesso queste cose sono sempre esistite, a noi interessa capire come gestirle nell'era dei social network, quando tu fai tempo ad avere la notizia che già è rimbalzata su migliaia e migliaia, con migliaia e migliaia di Twitter e di pagine Facebook. Prego. Proattività, la risposta è dare delle notizie, usare gli stessi social network con la stessa capacità con cui li usano i tuoi avversari, e attivare una serie di notizie positive che vadano a limitare, non dico a coprire, le notizie negative. Questi sono dei meccanismi tecnici di comunicazione attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso tutti i social network che consentono in qualche modo di arginare, però è sempre un arginare e quello che è bene è prepararsi, fare un audit, verificare quali sono i rischi e lavorare affinché questi rischi vengano minimizzati, sapendo che non si elimineranno mai, perché nella vita stessa delle aziende esistono dei rischi che non puoi nemmeno controllare pienamente, però se un'azienda industriale è di rischi ambientali, se sei un'azienda che opera in mercati non trasparentissimi hai dei rischi legati alla trasparenza finanziaria o dei lavoratori, se sei un'azienda che vive le Cayman c'hai cioè altri tipi di rischi, cioè, l'analisi di questi rischi non è difficile farla, bisogna entrare nella mentalità che può accadere ogni minuto, che la nostra brand reputation non è una cosa così un po' fighetta che uno si mette attorno a un tavolo, fa un briefing per la brand reputation ed è tutti siamo contenti. Lo sappiamo che questi intangibili hanno un valore nel bilancio, e basta vedere quanto è stato bruciato in borsa in questi due giorni. Ma perché sembra sempre che gli intangible assets, cioè i beni intangibili, siano eterei, sono intangibili ma sono pesanti, non so come dire. Assolutamente sì. Perché abbiamo dei consumatori che non guardano solo il prezzo e la qualità, ma guardano anche il valore del brand. E hanno tutte le informazioni che erano impensabili solo 10 anni fa. Detto ciò, mi sembra che la regola del vecchio McLuhan, che la non comunicazione è comunque comunicazione negativa, resti e venga anche amplificata dai social network. Grazie anche a Gianluca Comin. Allora, onore a Mirella Gabanelli e onore anche a Andrea Malan al merito, perché il collega del Sole 24 Ore oggi ha scoperto una cosa tutta legale, voglio essere preciso. Sergio Marchionne ha venduto lo scorso giovedì 30 ottobre, ha esercitato il suo diritto a vendere 6.250.000 azioni di Fiat Chrysler e altrettante di CNH Industrial. Praticamente l'ha venduto il 30 ottobre e il giorno successivo in due tranche, si è assicurato un guadagno lordo, quindi al lordo delle tasse, di 10.750.000 euro, tutto regolare, le aveva come stock option, come money manager, le ha vendute. Che cosa ha scoperto Andrea Malan, diciamo così, che lui ha esercitato il diritto il 30 ottobre, fino a pochi giorni prima della scadenza l'opzione era out of the money, come si dice in gergo, ossia non avrebbe garantito a Marchionne alcun guadagno. Il 29 ottobre però lo stesso Marchionne, ma è una coincidenza, annuncia la quotazione della Ferrari, il titolo Fiat Chrysler guadagna il 12%, questo come coincidenza permette a Marchionne di avere un valore del titolo che gli permette di esercitare e guadagnarci il diritto a vendere le stock option, o meglio le stocks e basta, senza option, tutto qua, e quindi un timing perfetto, e che vorremmo vedere, se mi permette della battuta, anche nel lancio dei modelli della Fiat in Italia, lo stesso timing, la capacità, visto che il mercato è ripartito, di lanciare i modelli con un tempismo come quello che ha avuto nell'annunciare la scissione della Ferrari da Fiat. Il titolo cresce il 12%, questo permette a Marchionne di esercitare il diritto a vendere le azioni e intascare 10.750.000 euro. Lordi. Mario Platero, in collegamento con noi da New York, ti aspetta una grande notte, una lunga notte, non so se grande ma sicuramente lunga, buonasera. Buonasera Sebastiano, lunghissima. Allora, io volevo lanciare una scheda sullo shale oil, la mando in onda domani, perché oggi non ce la faccio, perché volevo spiegare bene come mai l'America si sta rendendo indipendente dall'approvvigionamento dell'energia, ed è il motivo per cui anche oggi il prezzo del petrolio è calato a $77 il barile, perché l'Arabia Saudita vende all'America, ha abbassato il prezzo del petrolio che vende in America. Posso dire una cosa e poi ti lascio parlare per i prossimi 4 minuti, ma non è che questo sia l'unico successo di Barack Obama, visto che rischia di essere sconfitto da queste elezioni di midterm, nel senso che la riforma sanitaria zoppica, la riforma di Wall Street, boh, chi l'ha vista, sicuramente non ha spaventato i grandi banchieri di Wall Street. La politica estera stende un velo pietoso vista la situazione in Medio Oriente. Ecco, lui aveva annunciato l'autonomia americana dagli approvvigionamenti di paesi a rischio, appunto Iran, Iraq, Arabia Saudita, così. Forse lì c'è riuscito. Sì, direi che c'è riuscito. Non so se ci sia riuscito lui, ci sono riusciti coloro che si sono impegnati, che hanno investito, che hanno preso il rischio delle esplorazioni, per esempio in Dakota, già molti anni fa, e dopodiché la cosa ha funzionato e l'America diventa esportatore netto. E la cosa interessante, Sebastiano, è che questo lo si trova, cioè il riscontro di questo lo si trova immediatamente alla pompa di benzina, dove il costo di un gallone sono circa 4 litri, è passato da $4.20 a $3.30, $3.40, quindi quasi un dollaro di guadagno per il consumatore americano. Ecco, l'America è un paese che poi è molto su ruote, sono grandi distanze, si vive nei sobborghi, e quindi è una cosa che sicuramente ha un impatto sulla tasca del cittadino. Pensate, $4 era $4.20 per un gallone 4 litri, vuol dire che costa meno di un dollaro, meno di un euro al litro praticamente. Quindi per le tasche degli americani è sicuramente un vantaggio. Come dicevi, questo non lo aiuta completamente o comunque fino in fondo, perché il rischio è che oggi, martedì 4 novembre, appuntamento elettorale del midterm, i repubblicani riescano a conquistare la maggioranza. Mario, facci una previsione, tu poi domani sarai sveglio fino all'alba e farai i servizi, i collegamenti anche per i nostri GR 24 domani mattina alle 7, alle 8, però una previsione, debacle democratica e vittoria netta dei repubblicani, chiedo. Sì, io credo che ci sarà un'affermazione netta dei repubblicani e credo che probabilmente riusciranno anche a prendere la maggioranza al Senato o comunque a ridurre di molto, quasi ad annullare la maggioranza dei democratici. Oggi i repubblicani hanno 45 seggi, i democratici ne hanno 55, quindi hanno bisogno di 6 seggi per avere la maggioranza, diciamo, semplice. Ecco, attenzione, non avranno i 60 seggi che avrebbero consentito ai repubblicani, per esempio, di abolire la riforma sanitaria. Ma da domani in avanti sarà tutto in salita. Parte una battaglia violenta, oppure, come succede, faranno un compromesso, saranno forzati al compromesso, e quindi Obama un passo indietro, gli altri un passo avanti, e chissà che qualche cosa non si concluda, per esempio su migrazione. Vedremo domani mattina in diretta dai nostri GR, Mario Platero in collegamento da New York. Salutare Mario Platero e anche gli ascoltatori, ricordo che oggi è una buona giornata nonostante tutto. Il governo ha rimesso e anzi ha portato a 400 milioni di euro il fondo per le disabilità, che aveva tagliato in maniera inaccettabile da 350 a 250 milioni di euro, una nostra piccolissima aiuto alle associazioni. Siamo contenti e bene così per oggi. Radio 24, la passione si sente.